Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Se con Area Sismica abbiamo conosciuto un aspetto di sonorità estesa per Rob Mazurek, altrettanto lo facciamo con Angelica a Bologna, centro di ricerca musicale Teatro San Leonardo, con una città che resta sempre centro di snodo, di convergenza, di passaggio, di residenza, in cui si prende e si lascia sempre qualcosa, in cui si semina per poi a distanza di tempo raccogliere. Torna con queste parole, con la sua terza edizione, Risveglio, il suono della città. È una proposta nata da un'estesa collaborazione, una community di musicisti attivi sul territorio bolognese dagli anni 90 ad oggi. Sono tre concerti. Il primo incontro sarà domani, il 20 marzo, alle ore 19:30, Rob Mazurek e Fabrizio Puglisi duo. Dopodiché una parte più estesa in prima assoluta dedicata a Tristan Ossinger per la giornata del 21 marzo. Si chiude Tolland McDonald's and the Sicilian Improviser Orchestra, dedicato a Lelio Giannetto, che sarà invece il 22. Quindi tre giornate veramente molto dense di ricerca musicale, chiaramente con Angelica ci aspettiamo e ci sorprendiamo ogni volta, la coppia Mazurek. Mazurek è un trombettista che io ho ascoltato e ho trovato in lavori con i Chicago Underground, con il progetto legato anche al Brasile, con Rio Underground e Sao Paulo Underground. Insomma, già dalla parola troviamo motivo di ricerca con questo underground ovunque, che arriva anche a Bologna insieme a Fabrizio Puglisi. E arriva da Angelica e sentiamo appunto i contenuti, più che altro incentrandoci sulla partenza di questa rassegna, grazie a un attivissimo Fabrizio Puglisi. Al Teatro San Leonardo, all'interno della rassegna di Angelica per mercoledì 20 marzo, quindi anche una giornata di vigilia di primavera, un duo Fabrizio Puglisi e Rob Mazurek. Fabrizio è qua con noi, buongiorno e bentornato. Buongiorno William, buongiorno a tutti. Cosa ascolteremo in questo incontro, che tra l'altro avrà anche motivo di estensione? Ci puoi dire qualcosa di più? Mercoledì 20 marzo è la prima di tre date che sto curando all'interno della programmazione del Teatro San Leonardo. È la terza edizione dei Risvegli, che già abbiamo fatto negli anni scorsi. Questa prima data c'è un set introduttivo in duo mio con Rob Mazurek, e il clou della serata l'orchestra delle studentesse, degli studenti al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, perché Rob Mazurek lunedì 18 e martedì 19 farà una masterclass in conservatorio aperta a questo ensemble di studenti, e il risultato, diciamo, di questo lavoro verrà presentato mercoledì 20 marzo. Poi giovedì 21 marzo, sempre lì al Teatro San Leonardo, sarà una serata dedicata a Tristan Ossinger, con un gruppo che è condotto da Edoardo Marraffa, che al suo interno vari musicisti che hanno collaborato con Tristan negli anni in cui si trovava in Italia, diciamo all'inizio degli anni 2000. E poi l'ultimo appuntamento è quello di venerdì 22, dove ci sarà la SIO, cioè la Sicilian Improvisers Orchestra, un ensemble fondato a Palermo all'interno della programmazione di Curva Minore, e questo ensemble verrà diretto da un altro grande musicista che è Tolem McDonald's. Quindi diciamo sono tre date molto ricche di musica e di cose. parlato della scena di Chicago con Chicago Underground Trio e anche in duo Rob Mazzure, che spesso si presenta poi accompagnato dall'orchestra, grazie a Fabrizio Puglisi, e il lavoro di approfondimento che inizierà da domani sera ad Angelica. Stiamo ascoltando Chicago Underground Trio, lavoro per la Thrill Jockey, label tra post rock, elettronica e contemporanea, veramente molto presente e di talentuosi presenze, scusate la ripetizione, di talentuosi musicisti, tra cui appunto il trombettista Rob Mazzure, che qua accompagnato da Chet Taylor alla batteria e Noel Coppersmith al contrabbasso e le parti elettroniche. Chicago Underground Trio, il disco è Sloan. Fabrizio Puglisi, ho chiesto questo incontro, com'è lavorare con Rob Mazzurek. Allora, l'incontro con Mazzurek, musicista estemporaneo, curioso, coinvolgente, nello stesso tempo anche non immediato, ma sicuramente molto forbito. E come sarà e com'è soprattutto approcciarsi con tutte queste caratteristiche, Fabrizio, alle quali tu rispondi meravigliosamente, però nello specifico cosa ci puoi dire? Con Rob ormai collaboriamo da anni, con vari gruppi, abbiamo avuto per un periodo un gruppo insieme tra l'altro a Danilo Gallo, Pasquale Mirra, Cristiano Calcagnile, con il quale abbiamo fatto qualche concerto anche in Germania, eccetera. Devo dire, mi è già capitato una volta di suonare una situazione privata, diciamo un home concert in duo con Rob Mazzurek, ed è stata una bellissima esperienza. E poi l'ultima volta abbiamo suonato in un quartetto al Festival di Salfeden quest'estate. Il quartetto era pure molto bello, tra l'altro con Chad Taylor alla batteria, e curiosamente il concerto è stato trasmesso da Radio 3 Sweet Jazz proprio ieri sera, quindi chi volesse penso che sia disponibile per qualche giorno in podcast sul sito di Rai Radio 3. Bene, e questo è un motivo di collaborazione che si protrae fra l'altro nel tempo, quindi non dico una sicurezza, perché c'è sempre l'aspetto di estemporaneità nella vostra collaborazione. Nello specifico cosa ascolteremo? Allora, con Rob abbiamo varie possibilità, dalle composizioni originali di Rob, in realtà per lo più abbiamo in genere suonato materiale scritto da lui, ci sono anche ampie zone di improvvisazione, chiaramente quando poi la pratichi con un musicista con cui hai una certa familiarità assume delle caratteristiche particolari, qualche strategia, qualche ambito in cui si sa che l'altro musicista saprà risponderti. Quindi non voglio fare il misterioso anche per riservare le sorprese a chi ci verrà a sentire, ma in realtà sarà un po' una sorpresa anche per me, per noi in generale, quello che verrà fuori. Beh, è un range molto ampio che va dalla composizione all'improvvisazione. L'appuntamento all'interno della rassegna Angelica, quindi al Teatro San Leonardo. Io, Fabrizio, ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, per la tua disponibilità, e ti auguro buona giornata e buona permanenza in quel di Catania. Poi ti aspettiamo grazie a Bologna. Grazie a voi, grazie a tutti, e ci vediamo al Teatro San Leonardo allora per i 3 giorni dei risvegli, mercoledì, giovedì e venerdì. Letteratura, teatro, musica a Bologna con Lungo 800 prende via la rassegna con Angelica, per alzare l'asticella nell'ascolto di sonorità, altri suoni contemporanei ed elettronica, Rob Mazzurek e Fabrizio Puglisi, sempre nella nostra città. Per quanto riguarda la letteratura in partenza, Scripta Bo Lectura Mundi, di cui dell'associazione presidente Carlo Lucarelli, un approfondimento su tutte le sfaccettature del prisma dedicato alla lettura e alla letteratura. Insomma, direi che ne abbiamo di grandissima qualità, oltre che di percorso per vivere la nostra città artisticamente e culturalmente con grande attenzione e allo stesso tempo con grande piacere. Al Paradiso Jazz ieri è iniziata ufficialmente l'edizione che in partenza ha visto un quintetto, The New Quintet di Bobby Watson. Insomma, col Breakfast Club cercheremo di coprire tutte le realtà artistiche e culturali di Bologna e, come ben sapete, non solo. Tra poco pubblicità e poi il Mood Groove nella Hall of Fame di quest'oggi, o anche Hall of Shame, non sempre l'arca della gloria può portare aspetti, anche se vogliamo, contraddittori. Bene, parleremo tra pochissimo all'interno del Mood Groove tra Parquet e Filosofia sui 103.1 per questo martedì 19 marzo 2024. Tra poco.